Il gastronauta di Davide Paolini. Gastronauti vicini e lontani, buona giornata da Davide Paolini. Ebbene, oggi vi porterò in viaggio, pronti a prendere nota e salire in macchina. Oggi vi porto in Calabria, ma in un itinerario molto particolare, l'itinerario che va nel Cirotano, chiamato anche Vecchio Marchesato. Tanto per intenderci, andiamo nel territorio di Ciro Marina. È un territorio che sicuramente a molti è sconosciuto dal punto di vista enogastronomico, magari anche dal punto di vista paesaggistico, e per questo cercheremo di scoprire appunto i segreti di questo territorio. Ebbene, comincio questo viaggio con a fianco un giornalista enogastronomico molto, molto preparato su quanto riguarda la sua terra, soprattutto sui vini, ma anche sui prodotti e sulla ristorazione. Buongiorno a Gianfranco Manfredi. Ciao Davide, a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno Gianfranco, e io voglio da te, così come posso dire, un flash sul Cirotano dal punto di vista gastronomico, enogastronomico. Sì, beh, incominciamo col dire che insomma da Ciro Marina, cominciando diciamo il nostro itinerario dalla riva dello Ionio, i vigneti lambiscono proprio il litorale, arrivano fino in spiaggia e poi salgono fino alla fascia collinare delle prime pendici della Sila. La zona è la culla privilegiata proprio del vigneto Calabria ed è una terra del vino, la terra del Gaglioppo, possiamo dire, come del Nebbiolo in Piemonte o del Lambrusco in Emilia Romagna, insomma, perché questo vitigno, che è il più diffuso della zona, ha segnato non solo la vitivinicoltura ma anche il paesaggio, la cultura materiale, i saperi, insomma i sapori, lo scenario immaginifico di queste terre. È una piccola regione, una regione nella regione, e i filari connotano il paesaggio come nelle grandi regioni del vino, insomma la vigna, diceva Cesare Pavese, è un miele dell'anima, e qui ci sono esempi spettacolari. C'è un vigneto in particolare, il vigneto Giardino di Francesco Porti, che è un vignaiolo e gentiluomo, che ha filari schierati in ordine perfetto che vanno da casa sua fin proprio alla riva dello Ione, sulla spiaggia, ed è un vigneto che insomma viene fatto visitare su richiesta ed è davvero uno spettacolo, paesaggio, un bene culturale, diciamo. Senti Gianfranco, ma è un bene che diciamo il vino sia stato chiamato Ciro, perché così rappresenta il territorio, perché se fosse chiamato Gaglioppo probabilmente allora a questo punto non avrebbe promosso il suo territorio. No, non c'è dubbio, il Ciro è non solo connota la viticoltura di questa zona, ma connota diciamo l'intero mondo del vino calabrese, è tormento ed estasi della Calabria, cioè da una parte è il vino più conosciuto e dall'altra parte forse per troppo tempo ha fermato l'immagine di questa regione del vino sul Ciro. Invece ci sono altri vitigni, altre zone vinicole pure molto interessanti, ma il Ciro rimane senz'altro il punto di riferimento. Ecco, rimani con noi perché ora entreremo in un'azienda agricola davvero molto importante, perché qui si produce frutta, si produce vino, si produce olio, ma di grandissima qualità ed è tutto biologico. Buongiorno Roberto Ceraudo. Buongiorno dottore, come state? Bene, bene, stiamo bene, anche in Calabria si sta bene in questo periodo, immagino. Senta Roberto, ci vuole parlare un po' delle sue coltivazioni e dei suoi prodotti, perché lei ha veramente dalle arance ai mandarini, al vino, all'olio, insomma ha dei prodotti davvero straordinari. È la terra che è benedetta, la sua terra? Eh sì, dunque, io a me come azienda abbiamo avuto una svolta nel 1988, quando abbiamo iniziato a partire con l'agricoltura biologica. Agricoltura biologica che adesso, dopo 26 anni, si è creato un ambiente spettacolare, diciamo, è ritornata alla natura l'agricoltura come 100-200 anni fa. Infatti su parecchie malattie, che sia della vite che dell'olivo, l'abbiamo superato normalmente senza avere nessun problema, perché si sono ricreati e gli antagonisti naturali, i predatori naturali. A un certo momento sta ritornando a un ecambiente particolare, che stiamo avendo grandi, grandi risultati, questo come natura. Perciò pure la Calabria in se stesso abbiamo questa facilità di poterla fare, perché ci sono determinate malattie, tramite la situazione del caldo, diciamo, riusciamo a superarle bene. Senta Ceraudo, ma come fa, come, qual è, non capisco, le sue arance durano tanto e sono ancora fresche, e il segreto è appunto l'agricoltura biologica? È la natura, dottore, perché lei, uno se rispetta la natura rispetta tutto quanto, perché il frutto viene naturale, ha una situazione in sé. Si combatte pure, cioè, le malattie, una volta che si hanno una situazione che si crea quell'ambiente, la pianta crea la flora batterica naturale, cioè delle cose entrano dentro, delle cose, circuiti particolari che non si riescono a spiegare. Senta, l'olio, quale cultivar lei ha? Principalmente abbiamo un'autoctona che è la tonda di Strongoli. Però diciamo, noi facciamo un blend e facciamo una parte tonda di Strongoli e una parte Carolea, che sono sempre autoctone che l'ha presi. Diciamo, abbiamo fatto una bella sperimentazione sull'olio con l'istituto sperimentale e dopo 7 anni di sperimentazione abbiamo capito come si fa l'olio. Abbiamo dei periodi particolari di raccolta. Cioè, io sono forse l'azienda che raccolgo le olive prima in Italia, perché parliamo dal 10 settembre in poi. Ah, quindi diciamo velocissimo. E quindi fa anche un olio nuovo, quello che è considerato, che viene chiamato in toscano olio nuovo. Quindi a novembre lei ha già pronto una prima fase dell'olio, una prima produzione. Sì, ma pure ottobre, diciamo. Prima ottobre. Sta nella fase di settembre, raccogliendo a settembre, poi c'ha un 15-20 giorni di deposito, se ci sono qualche impurità, e si può mettere sul mercato, diciamo. Non ci sono grossi numeri, logicamente, però ha un olio particolare che stiamo avendo, sempre grazie alla ricerca. E invece il vino? Il vino, noi abbiamo pure una cosa particolare, perché il terreno, l'azienda, ha una cosa particolare che è molto carica di potassio, allora ci dà la possibilità di anticipare il raccolto, perché noi andiamo a raccogliere l'uva non usando una chimica in cantina, andiamo a raccogliere l'uva, diciamo, quando ci dà il pH e l'acidità giusta di partenza, in un certo modo. Questo sempre dall'agricoltura biologica, per non usare chimica. Certo. Beh, l'azienda agricola Ceraudo poi di Strongoli non ha solamente queste produzioni, ma poi vedremo in una seconda parte anche sicuramente il ristorante, appunto il resort. Grazie a Roberto Ceraudo. Torno un secondo a Gianfranco Manfredi per chiedergli: Gianfranco, mi dai una chicca di questo territorio, un posto che a te piace molto, oppure un prodotto particolare a cui sei molto interessato, per i nostri radioascoltatori? Ma guarda, una chicca che tra l'altro sposa benissimo col vino è l'azienda, l'allevamento e il caseificio De Tursi lì a Strongoli, non molto distante dall'azienda di Roberto Ceraudo. Anzi, devo dire che è stato lui a farmi scoprire questa chicca. Beh, dopo andremo a visitare proprio anche De Tursi, lo andremo a visitare. Perfetto, perché tra l'altro, come dire, siccome tanti millenni fa, quando nacque il vino, fu parallela alla storia dei formaggi, è un abbinamento che continua, più che nei secoli, nei millenni, è uno sposalizio che è riuscito perfettamente. Ecco, ci sono molti, molti locali in Calabria che addirittura offrono 8-10 formaggi, 12 formaggi, il carrello dei formaggi, solo di formaggi calabresi. Sì, sì, per esempio c'è il Max, proprio a Ciro Marina, che è un ristorantino delizioso, polivalente, che però ha questa peculiarità, ha puntato moltissimo sui formaggi, ha costruito un carrello dei formaggi, diciamo, assemblando i prodotti di piccolissimi produttori, di allevatori che fanno il formaggio, producono il formaggio in proprio e l'affinano pure in proprio, e sono riuscito, insomma, ad assemblare questa galleria di beni, purtroppo in via di estinzione, che sono straordinari. Hanno avuto anche successo al Caseus, sono stati più volte premiati, insomma, sono un'azienda da questo punto di vista che è leader in questo discorso della valorizzazione dei formaggi. Come tu sai, purtroppo i carrelli dei formaggi o sono ormai inesistenti nei ristoranti, certo, oppure sono relegati in frigo, che sono deleteri per la conservazione. Bene. Dei formaggi. Grazie a Gianfranco Manfredi, in linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta Riprendiamo questo viaggio in Calabria, in particolare nel Cirotano o Vecchio Marchesato. Ho detto prima zona di Cirò, Cirò Marina, ovviamente anche con tanti altri borghi, ma proprio per mettersi in cammino nel miglior modo, diciamo, sentiamo anche un po' di sottofondo musicale. Si parla di terra, questo è un fatto molto ma molto importante. Ebbene, io quando sento sempre parlare di Calabria dal punto di vista, se vogliamo, degli studi del territorio, della tradizione, della storia, io penso sempre al professor Teti. Buongiorno professore. Buongiorno Davide Paolini, e vabbè, ci diamo del tutto, certo, facciamo abitualmente. Certo. Grazie per pensare a me, io apprezzo le cose che fai, quindi è reciproca la cosa, l'attenzione. Io sto facendo un viaggio appunto nel Cirotano, al Vecchio Marchesato, e qui ci sono alcuni prodotti molto particolari, diciamo, che possono essere raccontati. Tra l'altro in linea con noi anche un produttore della sardella, oppure chiamato, diciamo, caviale di crucoli, anche così, sì, così è diventato famoso. Senti, volevo chiederti questo: qui c'è una tradizione di conservazione, cioè è stato inventato un mezzo per conservare le neonate. Assolutamente sì, direi che questo è un esempio di una tradizione che si modifica, che muta, perché la pesca del pesce, come sai, risale all'antichità, e anche in quell'area già in epoca magno-greca c'era quel tipo di pesce. Ma la novità della sardella è costituita dal fatto che viene mescolata con l'olio e poi con il peperoncino. L'arrivo del peperoncino nella cucina calabrese rende possibile una serie di mutazioni alimentari, della sensibilità, del gusto, e la sardella sicuramente è uno di questi piatti che indica un miscuglio di tradizione e modernità, di elementi del mare, elementi della terra, come dicevi tu, e quindi c'è la salagione della sardella che viene in piccoli laboratori che poi sono destinati alla vendita, ma c'è tutta una ritualità legata alla pesca, ci sono delle tecniche di conservazioni, e c'è il tipo di peperoncino da adoperare. Non dimenticherei nemmeno i finocchietti, i finocchi di timpa selvatici, che, come dire, già i latini, i romani adoperavano in grande qualità, e che qui tende a caratterizzare anche questo piatto, che alla fine allora è un prodotto di mare, un elemento che arriva dall'esterno e che modifica, che rende possibile questa conservazione e questo carattere piccante è nuovo, e poi il finocchio e l'olio, anche qui molto buono, che rende unico questo prodotto, caviale dei poveri. Certo, rimani con noi perché ho un produttore in linea, Saverio Fontana, la cooperativa La Torre, appunto di Crucoli Torretta. Buongiorno Fontana. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo sentito Buongiorno. Dal professore che ha dato una spiegazione, diciamo, antropologica. Volevo chiedere a lei, qua c'è il segreto nell'uso del appunto di alcuni prodotti tipo il finocchietto, oppure abbiamo sentito anche di altri prodotti che il professore ci ha annunciato. Quindi ognuno di voi ha una, diciamo, ha dei segreti per produrre la sardella. Sì, è vero, sì. Sta dicendo proprio il giusto il professore. Intanto vorrei fare una distinzione tra il prodotto che si trova con il pesciolino che si vede, perché quello lì fino adesso si poteva pescare, adesso non si può pescare più. Quello che vedete in commercio, dove si legge pesciolini impepati, pesciolini sotto sale, così, quella è tutta roba che arriva dalla Cina, non è il nostro prodotto. Il nostro prodotto è tutta un'altra cosa. Anche questo taroccato, insomma. Sì, sì, il nostro è la vera sardella. Per questo il nostro paese si chiama Sardella, Crucoli, il paese della sardella. Perché è una tradizione antica, di quando c'erano i vecchi romani, diciamo, che allora veniva pescato questo pesce, questa sardina, precisamente la sardina Pilcardus, veniva pescata, viene lavata nel momento in cui arriva il prodotto, viene lavata e poi deve stare ad asciugare per 7 ore. Dopo 7 ore questo prodotto viene fatto uno strato di sale e uno di sardella, uno di sale e uno di sardella. Dopodiché viene messo sotto pressione per 8 mesi, capito? Certo, sì. Allorché dopo 8 mesi questo cosa succede? Il sale inizia a sciogliere il pesciolino che abbiamo messo sotto, sì. Sotto sale. Dopo gli 8 mesi cosa facciamo? Noi andiamo a prendere il prodotto, togliamo la sola muoia che si è formata, perché il sale con la pressione del peso forma una piccola salamoia. Certo. Allora, però noi prima di fare questa operazione cosa facciamo? La sera prima prepariamo in un tegame grande, in base a quanto sardella bisogna preparare, dell'acqua, la mettiamo a bollire, la portiamo a 100 gradi e poi buttiamo qualche pizzico di sale. Dopo fatto questa operazione l'acqua deve stare a riposare per tutta la notte. Il giorno dopo prendiamo il prodotto che è sotto sale, lo sciacquiamo, lo passiamo sotto l'acqua, diciamo, allorché prendiamo la salamoia che abbiamo preparato la notte e sciogliamo questo pesce, lo sciogliamo, quello che rimane del pesce, lo sciogliamo con la salamoia. Poi prendiamo il scolapasta, sì. Diciamo, e con i guanti e con le mani prendiamo il prodotto sciolto, lo passiamo nel setaccio, diciamo, nella sì. Scolapasta, e con le mani togliamo quel poco di lisca che c'è all'interno del pesciolino. Dopo fatto questa operazione, cosa facciamo? Prendiamo il peperoncino, giustamente il peperoncino calabrese, non quello di importazione, oppure perché il trucco è proprio là. E ci vuole il pepe adatto, il peperoncino calabrese, il certo. Vecchio sarbaturo si chiama. Che in Cina non hanno, ecco. Non hanno in Cina, perché in Cina è tutta un'altra cosa. Allorché imbastiamo questa mustica di sardella, diciamo che il prodotto che è uscito, sì. Con il peperoncino e poi buttiamo il chinocchietto selvatico, quello di montagna, non è quello che si trova in giro nei certo. Supermercati, e questo è il trucco. Dopodiché questo viene imbastato e deve stare un paio di giorni in un tegame grande che viene girato, gira, in modo che evapora il pepe. Una volta che è evaporato il pepe, il prodotto è pronto. Bene, devo dire che magari uno lo compra e non pensa il lavoro che c'è dietro. Cari radioascoltatori, avete sentito quanto lavoro, quindi quando andate a comprarlo non lamentatevi assolutamente del prezzo, perché vale quello che viene venduto per tutto questo lavoro. Io la ringrazio, Saverio Fontana, cooperativa La Torre, Crucoli Torretta, grazie, perché le ha dato una spiegazione davvero didattica, splendida. Grazie e buon lavoro. Buongiorno. Io torno al professor Teti e voglio chiedere al professor Teti questo: il cirotano o vecchio marchesato, Teti, cosa c'è di interessante? Ecco, cosa un viaggiatore che arriva in questo territorio, secondo te, cosa deve cogliere? E allora io intanto posso aggiungere qualcosa alla bella descrizione, la versione sì. Fatta dall'imprenditore, dalla produttore, perché lui qui manifesta una certa preoccupazione che io condivido in toto, con tutti questi prodotti tipici locali che sono il frutto di esperienze, di produzioni, di acclimatizzazioni, è impossibile, voglio dire, non cercare di contrastare l'arrivo di questi prodotti sì. Che in qualche modo alterano completamente il prodotto e il gusto. E qui, per esempio, noi ci troviamo in un'area, anche lo stesso folklore ce lo ricorda, i modi di dire, ne cito uno: mandatoriccio per il pane, crucoli per la sardella, cira per il vino. Oppure con riferimento al valore dietetico, ma anche simbolico, terapeutico della sardella, un proverbio dice: u vino per u sapore, u pane per u coloro, a sardella per u ruciuri. Vale a dire, per l'ascoltatore che giustamente dice che lingua è questa, ma è una lingua antica e nobile: il vino per il sapore, il pane per il colore, la sardella per il bruciore, per quella sensazione sì, di sì. Benessere, di stimolo. E qui siamo in una zona ricchissima di prodotti locali, dagli ortaggi, per esempio le melanzane, ecco, è famosissima la parmigiana di melanzana che viene fatta in quel territorio, ma poi questa felice mescolanza di prodotti del mare, di prodotti di terra e di prodotti della pastorizia. Per esempio i formaggi di quell'area sono tra i più, diciamo, importanti, più famosi. E poi c'è il vino, e il vino è inseparabile dalla sardella, il vino è inseparabile da quest'altri prodotti, e tutto ciò ci fa pensare che siamo all'interno di un sistema alimentare, di un regime alimentare, di una cultura alimentare nobile che meriterebbe di essere conosciuta nella sua complessità. Come vedi, io cerco di farlo, poi tu hai dato questa pennellata, secondo me, molto, molto bella, e quindi spero che molti radioascoltatori che ci stanno sentendo magari in queste vacanze decidano di fare una puntata nella zona appunto del Cirotano. Grazie Vito, grazie e a presto. Secondo, tu cerchi di farlo, lo fai benissimo. Volevo indicare questa pasta con la rosmarina, capere, sì? E mollica, che è un piatto di quell'area, e dove la rosmarina viene adoperata non solo con il pane, ma come condimento di una pasta assieme ai capperi e alle molliche di pane, ed è un piatto veramente eccezionale che dà l'idea di una capacità di mescolare alimenti, di trattarli, e questo ovviamente è un piatto che va consumato in loco, e quindi l'invito è che attraverso trasmissioni come la tua un certo tipo di turismo culturale gastronomico possa trarre vantaggio, perché la Calabria in questo periodo ne ha bisogno e lo merita su altri piani. Grazie Vito, a presto. Buon lavoro. Allora, ora abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di mangiare, di ricette, e andiamo a Ciro Marina da Sasà il pescatore. Buongiorno Sasà. Buongiorno. La vostra è una cucina di mare. So che voi siete molto, molto specializzati sulla piovra. Facciamo cucina marinara, quindi la piovra ne abbiamo come polpo grosso. Ho capito. Ma la piovra alla Cirovitana, come viene, com'è? Allora, alla Cirotana, il classico piatto alla Cirotana è fatto con i peperoni, pipe, che viene detto pipe e frupp. Polpo con i peperoni. Poi c'è la variante che è una ricetta che faccio io con i fagioli, fatta a zuppetta, e poi servita in insalata e via discorrendo, capito? Qual è il... tante maniere. Suo figlio è un pescatore, quindi sicuramente da voi il pesce è sempre fresco. Qual è il pesce magari che maggiormente viene pescato ed è più caratterizzato del vostro mare? Allora, noi seguiamo la stagionalità, perché con le nostre barche sono barche sono iscritte in cooperative. E allora facciamo la piccola pesca, non pesca a strascico, ci sono anche pescherecci a strascico, però diciamo adesso stanno andando col palangaio, si fa la pesca al pesce spada, poi ci sono merluzzi in questi periodi adesso. Si pescano polpe con le nasse e pesce diretti di tramaglio. Bene, grazie a Sasà il pescatore a Ciro Marina, un ristorante appunto di grande pesce. Buona giornata Sasà, a presto. Tanto pure voi. Il gastronauta. Continuiamo questo viaggio nel Cirotano, appunto tra Ciro Marina e tanti altri, diciamo, borghi, a cominciare da Strongoli. Eppure, ecco, ci fermiamo a Strongoli. Ci fermiamo nel ristorante Dattilo, appunto, di Strongoli, che è all'interno di un'azienda agricola. E quindi sicuramente qui si farà cucina a metro zero. Buongiorno a Caterina Ceraudo. Buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno Caterina. Senta, ma lei, avendo un'azienda agricola a disposizione, e la cucina la basa molto sui prodotti della sua azienda? Sì, esattamente. La mia cucina è centrata sui prodotti dell'azienda, infatti abbiamo anche un orto e un agrumeto e uso prevalentemente i nostri prodotti. Ecco, mi faccia qualche esempio di qualche piatto. Ad esempio, per quanto riguarda un dolce, uso molto gli agrumi, quindi una zuppetta di agrumi con un gelato di capra. Mentre per quanto riguarda un piatto salato, gli gnocchi di ricotta con peperoni e spinaci, prevalentemente nel nostro orto, oppure il riso all'acqua di pomodoro. Comunque cerco di utilizzare sempre i nostri prodotti, evitando di comprare cose che non conosco, in quanto comunque facciamo agricoltura biologica da tanto tempo e so quello che che trasformo e quello che dai clienti. Ecco, all'interno appunto dell'azienda c'è il ristorante, ma ci sono anche delle camere, c'è anche un resort. Sì, c'è anche un resort, quindi possono tranquillamente pernottare qui e mangiare qui e poi magari l'indomani fare una passeggiata, una bella colazione. Ecco, lei si rifà appunto ai prodotti del suo orto e sicuramente alla stagionalità, ma c'è anche qualche piatto della tradizione che ha riportato nel suo menù? Senz'altro. Esempio, c'è un piatto molto buono che è lo spaghetto con la borragine. La borragine era molto utilizzata qui in Calabria, però la gente non la mangiava più, o perlomeno non la conosceva. E infatti abbiamo recuperato questa verdura e l'abbiamo inserita nuovamente in menù. E molte persone ci chiedono: ma che cos'è la borragine? Paradossalmente, anche se tutti sanno che è un piatto molto, diciamo, dei nonni, quindi un piatto della tradizione che si stava perdendo. Ecco, abbiamo sentito prima raccontare da un produttore di sardelle il procedimento molto lungo per arrivare al prodotto finito. Io lo chiamo ancora caviale di cruculi, poi c'è una persona in attesa che sa benissimo perché io lo chiamo in questa maniera, ma poi ne parleremo. E lei la usa la sardella? Sì, la uso. La uso come entrée. Faccio una sfogliatella con questa con la sardella di base, e anche in questo caso la sardella l'abbiamo fatta io e papà qualche tempo fa e la usiamo come entrée. Sì, ma io uso tutto ciò che è locale. È difficile che nel menù trovate cose, diciamo, fuori dalla regione. Quindi incredibile, quindi qui diciamo che è proprio metro zero, non chilometro zero. Rimanga con noi, perché io lo vado da un personaggio, il leader massimo del vino, colui che sicuramente ha avuto un merito incredibile nel rilanciare questo territorio e soprattutto il Cirò e gli altri vini. Buongiorno a Nicodemo Librandi. Buongiorno dottore Paolini, buongiorno. Ecco, bene, grazie. Stavo pensando quando lei mi ha fatto scoprire il caviale di Crucoli su quella spiaggia di Crucoli. Bene. Era una domenica solare. Sì. Nicodemo, lei ha avuto uno sviluppo incredibile, la sua azienda, tra l'altro, diciamo che ha trascinato molti produttori della zona. Oggi appunto questo vino è riconosciuto sicuramente anche a livello nazionale ed è conosciuto, perché prima sicuramente si conosceva proprio. Questo sforzo è servito anche per tutto il territorio, Librandi? Penso di sì, penso di essere stato un buon esempio. Comunque il territorio è cresciuto molto, ci stanno molte aziende calabresi che stanno producendo vini di qualità, e su questo che stiamo insistendo adesso noi, cioè portare, diciamo così, promuovere il vino calabrese e portarlo a livello appunto internazionale, fare riconoscere le peculiarità di questi nostri prodotti. Senta, oltre al Gaglioppo, lei sta, diciamo, ha sperimentato anche altri vitigni autoctoni? La Calabria, guarda, è, diciamo così, è una miniera di queste cose, perché noi abbiamo fatto tesoro di un lavoro che ha fatto un architetto di Cosenza, che ha pubblicato il volume Terre d'Uva, dove lei elencava 706 varietà di uve presenti su tutto il territorio regionale. Basandoci su questa, diciamo così, su questo lavoro, noi abbiamo iniziato un lavoro di ricerca, abbiamo selezionato 189 varietà di uve che l'abbiamo messo in un campo sperimentale. Su questo abbiamo fatto poi un lavoro di ricerca e sperimentazione con i vari istituti, col Centro di Torino, con Donato Lanati, che è il nostro enologo, col Ceria di Condiano Veneto. Quindi stiamo studiando e riscoprendo tutta questa, diciamo così, ricchezza varietale genetica che ha la Calabria. Ecco, qual è il vitigno che vede in futuro, diciamo, calabrese, che avete in un certo senso riscoperto, che può dare grandi soddisfazioni? Noi abbiamo incominciato soprattutto a lavorare sul nostro Gaglioppo, che è il vitigno principe, e su questo finalmente siamo riusciti a selezionare 8 clone, di cui 4 l'abbiamo di recente iscritto al Registro Nazionale della Vita del Vino, quindi abbiamo lavorato molto sul Gaglioppo. I risultati sono veramente sorprendenti. Poi, dopodiché, di questi vitigni antichi che erano un pochettino state messe a disuso, come il Magliocco, comunemente da noi che veniva chiamato una volta lacrime ed era in varie percentuali nei vitigni antichi nostri, c'è il Magliocco, c'è il Greco Nero, c'è il Mantonico, il Pecorello, tutti questi vitigni che noi stiamo riproponendo e diciamo così moltiplicando. Senta Nicodemo, un po' da sempre anche il vino calabrese, come altri vini del sud, sono considerati molto potenti, quindi di alta gradazione. Voi state lavorando anche su questo? Ma noi tradizionalmente come azienda abbiamo sempre, diciamo così, prediletto l'eleganza nei nostri vini. È difficile che trovi un nostro vino carico di strutturato e così via, ed è quello che poi normalmente sta richiedendo il consumatore moderno. Noi lavoriamo molto sull'eleganza, quindi lavoriamo, diciamo così, in cantine in modo tale da poter portare sul mercato dei vini piacevole e abbastanza, diciamo così, non tanto carico e tanto potenti, soprattutto come, quindi lavoriamo sulle macerazioni, lavoriamo sulle fermentazioni a freddo, insomma, diamo molta importanza all'eleganza del vino più che alla potenza. Bene, rimanga con noi un'ultima battuta, Caterina Ceraudo. Volevo chiedere, il pane, c'è una grande tradizione in Calabria sul pane, Caterina? Sì, c'è una grande tradizione, tra l'altro a me piace molto, tant'è che ho iniziato a panificare qualche anno fa e mi sono innamorata del pane, e quest'anno abbiamo piantato 2 ettari di Senatore Cappelli perché stiamo facendo delle prove. Ma incredibile, quindi veramente tutto autonomo. Grazie Caterina Ceraudo, grazie. Io voglio tornare a Nicodemo Librandi per chiedere anche questo, Nicodemo. All'estero il vostro vino comincia ad essere apprezzato? Guarda, noi praticamente siamo molto presenti all'estero, quest'anno siamo intorno al 60%. In quali paesi soprattutto? Noi il mercato nostro più importante è la Germania, poi c'è gli Stati Uniti, l'America, il Canada, Giappone, insomma siamo in 32 paesi diversi. Comunque il mercato dove noi siamo più presenti, dal Lago di Costanza fino a Lubeck, così a Kiel, siamo è la Germania. Bene, e devo dire che appunto la sua azienda nel giro di qualche anno veramente è diventato il portabandiera. La ringrazio Nicodemo Librandi, a presto. È stato un piacere sentirla, dottor Paolini. A presto, bene, ora andiamo a Ciro Marina, andiamo in un ristorante, in una trattoria enoteca che si chiama Max, che è famosa ovunque per il carrello dei formaggi. Buongiorno Salvatore Murano. Buongiorno dottore Paolini, sono Salvatore. Senta, ma il suo carrello di formaggi, mi dicono che è veramente una cosa strepitosa. Beh, ultimamente il carrello di Max è un riferimento per la provincia, in quanto abbiamo molti produttori che ci aiutano a realizzarlo e noi siamo sempre alla ricerca di prodotti nuovi per offrire ad una clientela sempre più attenta oggi. Senta, si trova più formaggio ovino oppure vaccino nella sua zona? Da noi è da consuetudine usare, diciamo, le varie lattazioni in vari periodi dell'anno. Siamo molto ovino in questo periodo e caprino, perché siamo in fine lattazione. E quindi abbiamo delle ottime sciongate, delle ottime ricotte, del pecorino ancora fresco, però ci stiamo portando invece avanti tutte i caciocavalli, i formaggi al latte crudo di Podolica, e quindi abbiamo una bella scorta invernale, diciamo, e primaverile. Senta, lei, cioè, il suo carrello rappresenta tutta la Calabria o solamente il Cirotano e basta? Ecco, quindi... Noi quando l'abbiamo ideato l'abbiamo chiamato il cosiddetto e famoso carrello di Filottete, a rappresentare un pochettino tutta la Calabria, che va dal massicciato dalla Sila, un po' il Pollino, il Poro. E abbiamo qualcosa dell'Aspromonte, abbiamo un caprino di Platì, insomma abbiamo cercato di coinvolgere quasi tutti i produttori che avessero, diciamo, una vocazione nel produrre. Ecco, il caciocavallo rimane un po' il prodotto principe. Caciocavallo, sì, abbiamo diversi caciocavalli, tra cui quello silano, diciamo, per eccellenza, poi ci riforniamo anche di qualche, quando ci capita, di un po' di Ciminà. Insomma, ne abbiamo in diverse stagionature, diversi produttori nobili anche. Ecco, il caprino è poco presente in Calabria, il formaggio caprino? Ma il caprino ultimamente sta avendo una riscoperta, sia per quanto riguarda il caprino a forma, diciamo, stagionata, fresco, anche asciungato, oppure addirittura ci sono alcuni erbolinati a crosta fiorita. Ah. Che prendiamo da qualche produttore che sta sotto a Morano. Quindi veramente una rappresentazione dei formaggi davvero incredibile. Ovviamente avrà anche una carta di vini adatta ad abbinare con questi formaggi. Certamente, in queste ce ne occupiamo, facciamo degli abbinamenti molte volte in base ai formaggi che abbiamo, sbicchieriamo tipo dai alcuni bianchi importanti, molto, molto strutturati, a dei rossi invece pronti e beva, mentre con alcuni formaggi stagionati andiamo con dei vini del Cirotano che sono diciamo accostabili benissimo. Bene, Salvatore Murano, Max, Trattoria Enoteca Ciro Marina, quindi chi si trovasse in quella zona sicuramente vada ad assaggi questo carrello dei formaggi, perché come avete sentito è sicuramente difficile da trovare da altre parti. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in viaggio. Bene, avete sentito questo territorio che magari a molti è sconosciuto, sicuramente quante chicche offre, non solo dal punto di vista gastronomico, ma anche della curiosità sulle tradizioni, sul paesaggio. Davvero, io credo, una grande sorpresa. E allora dedichiamogli anche una musica importante. Bella Calabria mia. Una terra davvero molto importante, che ha ovunque nel mondo sicuramente dei calabresi, e quindi è molto sentita come terra, è molto sentita anche dal punto di vista, se vogliamo, sentimentale. Ebbene, noi stiamo cercando appunto di farla scoprire al meglio, e diciamo che diamo atto all'invito che ha fatto l'antropologo Vito Teti di poterla conoscere, di poterla viaggiare in questi suoi aspetti molto, molto peculiari. Ma continuiamo questo viaggio che abbiamo iniziato parlando di un prodotto importante conosciuto come la sardella, ma sicuramente abbiamo sentito anche dei formaggi, abbiamo sentito di prodotti dell'agricoltura, tutti biologici, e poi abbiamo sentito anche un ristorante addirittura che usa veramente i prodotti solo della propria azienda, quindi veramente un fatto fuori dalla norma. Ma ora andiamo a scoprire anche un altro prodotto che sono i salumi. Magari pochi pensano magari al salame col peperoncino, ma non è così. Ci sono veramente tante tipologie di salume. Soprattutto in questo territorio c'è un maiale importante, perché è uno dei sei autoctoni italiani ed è il maiale nero di Calabria. E allora, siccome abbiamo Franco Simone, presidente dell'Associazione Nero di Calabria, vorrei che ci parlasse lui appunto della peculiarità di questo maiale. Buongiorno Simone. Buongiorno a voi. Ci vuole raccontare appunto cos'ha di speciale questo maiale nero? Questo è un maiale che purtroppo è stato messo da parte anni fa dovuto all'industrializzazione, anche per quanto riguarda i maiali, perché venendo dall'estero i maiali bianchi, questo era un maiale lento nella crescita, quindi ci volevano più mesi per portarlo al peso ideale per la macellazione, è stato messo da parte. Grazie a qualche allevatore si è trovato qualche ceppo in giro, e oggi possiamo dire veramente che siamo stati fortunati ad avere questi ceppi sparsi un po' in Calabria, e oggi siamo arrivati ad avere 20 allevamenti, noi personalmente, di allevatori del nero di Calabria. Questo maiale è particolarissimo perché è un maiale strutturalmente diverso dal maiale bianco, sia come consistenza del grasso, delle carni, e addirittura la struttura ossea è diversa. È un maiale che ha bisogno di spazi, ha bisogno di camminare, quindi camminando è un maiale che brucia i grassi saturi e resta nei grassi nobili. Quindi è un maiale tipico da allevare allo stato brado? Sì, rigorosamente allo stato brado. se un maiale nero, parliamo del nero di Calabria, detto, conosciuto come Apulo Calabrese, quindi se questo maiale venisse allevato in una stalla, come si faceva una volta, no? Ognuno si cresceva questo maiale in stalla, fino ad anni fa, questo maiale metterebbe un sacco di grasso, perché è un maiale che ha bisogno di muoversi, di stare a contatto col terreno, di trovare radici, di grufollare nel terreno, quindi mangia bacche, radici, ghiande, castagne. È un maiale che ha bisogno di energia, no? Quindi certo, ha bisogno di mangiare, per esempio, più mais rispetto al maiale bianco, che può mangiare anche sfarinati derivati dal grano. Ecco, quindi è un maiale che brucia le energie, quindi bruciando queste energie brucia i grassi, ecco. Senta, ha parlato di 20 allevatori, più o meno quanti maiali all'anno riuscite a produrre, a mettere in produzione appunto per produrre salumi? L'anno scorso abbiamo macellato circa 4.800 maiali, sono pochi, un numero, perché anche i prodotti sono prodotti di nicchia, non sono prodotti commerciali che si trovano dappertutto, perché sono prodotti fatti rigorosamente come si faceva una volta, senza additivi, senza nessun tipo di conservante, al naturale. Diciamo che direi una cosa un po' grossa, oggi si parla tanto di bio, ma noi più che bio puntiamo al naturale il 100%, cioè senza nessun tipo di additivo. Bene, io devo dire che questa sua definizione mi trova molto concorde, perché io sono convinto che ci sia il naturalmente biologico, che ha validità come il bio, diciamo quello timbrato, quindi sicuramente da supportare questo tipo di produzione. Ma rimanga con noi Franco Simone, perché tornerò poi da lei, e ora vado in una masseria che già un intervistato ci ha citato per la qualità dei suoi prodotti. Andiamo alla masseria De Tursi, Contrada Varco a Strongoli. Insomma, Strongoli mi sembra che sia un enclave di buon mangiare, perché abbiamo l'agricoltura, abbiamo appunto i formaggi, abbiamo ristorazione, quindi mi sembra che Strongoli sia veramente un'area da venire a vedere, vero? E a mangiare soprattutto. De Tursi, lei cosa ne pensa? Sì, sicuramente importantissimo. Abbiamo belle realtà nuove, alcune più vecchie, altre più giovani, ma che lavorano tutto in modo veramente eccezionale. Senta, l'azienda... Prego. Dica. No, volevo chiederle appunto, lei è un produttore di formaggi di alta qualità, e lei usa la certificazione biologica, tra l'altro. Sì, certificato biologico, in più utilizziamo il marchio garanzia IAB, che garantisce che appunto i prodotti sono 100% biologico. Ecco, ci vuole raccontare un po' la sua produzione, che è soprattutto di pecorino o anche di vaccini? Di vaccino? No, solo pecorino. Solo pecorino. Ci racconti un po' i suoi prodotti, De Tursi? Dunque, la mia azienda nasce i primi del 1940 da mio padre, poi la continuazione dei fratelli, oggi mia, Giuseppe. Io dal 94 ho convertito tutto al biologico, abbandonando un po' quello che era il sistema industriale. Quindi l'azienda, essendo da 20 anni ormai condotta al naturale, perché io non utilizzo neanche concimazioni biologiche o altre cose consentite in agricoltura biologica, praticamente è tutto al naturale. Essendo quindi da 20 anni in questo sistema, nella mia azienda, che conta 105 ettari tra seminativi e pascoli cespugliati, si è ripristinata tutta la flora mediterranea, quindi nei prati e nei pascoli si trovano decine e decine di varietà, fra trifogli, erba mediche spontanee e altre erbe, tutte della macchia mediterranea. Quindi gli animali vengono condotti solo al pascolo per 365 giorni all'anno, perché noi siamo sullo Ionio, l'azienda è a un'altitudine sul livello del mare media di 130 metri, cioè parte da 30 metri fino ad arrivare a 250 metri di altitudine, quindi gli animali praticamente vivono all'aperto tutto l'anno. Quindi voi producete soprattutto pecorino? Io produco soprattutto solo pecorino. Pecorino e ricotta sempre di pecora stagionata. Ecco, pecorino a latte crudo, quindi, di latte crudo. Sì, animali alimentati solo al pasto, certo. E quindi quello, come lei ben sa, gli animali che brucano l'erba e tutti i fiorellini di primavera riescono poi ad esprimere nei formaggi il massimo della loro attività. Senta, la stagionatura quanto dura? Ma noi abbiamo stagionature fino a 4 anni e mezzo circa, perché lavorando a crudo, quindi con il sistema di una volta, però con tutte le tecnologie moderne, perché giustamente bisogna stare attenti alla salute delle persone e quindi alla tradizione, noi, come si suol dire, abbiniamo anche la tecnologia, che ci consente di fare prodotti più sicuri e più sani. Quindi lavoriamo a crudo e facciamo unica lavorazione, non lavoriamo su fresco e su stagionato. Noi lavoriamo latte crudo e pasta semicotta, in modo da avere un prodotto dal semistagionato al riserva che arriva come appunto il 4 anni. 4-5 anni. Senta, questo... Facciamo delle affinature particolari, ci dilettiamo a fare le affinature in barrique con le foglie di noci, con erbe primaverili, con la crusca di grano duro Serratore Cappelli bio che produciamo in azienda, e facciamo pure una buona semola semi-integrale di grano duro Serratore Cappelli. E poi con le vinacce di uve bianche nostre autoctone calabrese, il famoso pecorello. Ah, pecorello si chiama questo. Il pecorello. E questo qui, questo prodotto, quest'anno al Premio Roma ha avuto un grande successo. È stato premiato con medaglia d'oro e in più premio della critica. Bene, complimenti allora, anche perché dal racconto... Siamo un'azienda super premiata a livello nazionale e internazionale. Bene, bene Giuseppe De Tursi, mi fa molto piacere. Masseria De Tursi con Tradavarco Strongoli. Io torno un secondo veloce a Franco Simone perché voglio chiedere quali sono poi da questi maiali, diciamo, i salumi più intriganti che escono. Immagino il guanciale, il salame. Facciamo tutti, facciamo addirittura la carne come si faceva una volta sotto sale, la famosa carne incantarata che sarebbe nel vaso di Creta, oggi sostituito dal vaso di Teflon per il fatto del piombo che era nella Creta. Poi facciamo, diciamo che il nostro fiore all'occhiello è il prosciutto, con stagionatura a 36 mesi, è stato definito unico al mondo con le caratteristiche organolettiche, dovuto al fatto del grasso che... con questa stagionatura arriva ad avere dei valori eccezionali. Senta Simone, ma lo stagionate in loco, in Calabria? Sì, in Calabria, in delle famose catoie, che sapete che in Calabria una volta sotto ci stavano gli animali, su viveva il calabrese, no? Ogni calabrese aveva il suo asinello, la sua pecora, eccetera. Quindi in alcuni paesini abbiamo riscoperto queste catoie, ristrutturandole abbiamo avuto la possibilità di fare un semilavorato, quindi prendere questi prosciutti che sono stati 6 mesi in questi prosciuttifici e il restante farli in queste catoie. Bene. No? Bene, la ringrazio Franco Simone perché abbiamo chiuso questo viaggio nel Cirotano, un viaggio veramente di grandi scoperte e sicuramente da andare a visitare. Come avete sentito ci sono delle chicche straordinarie. Grazie Anita Panizza in regia, Lauricella in regia, alla prossima settimana.